24 mattino. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianfranco Fabi. Questa settimana ad augurarvi buongiorno al posto di Alessandro Milan, a cui auguriamo buone vacanze. Oggi abbiamo iniziato con Lucio Battisti, un grande cantante. Non c'è nessuna ricorrenza, se non forse il fatto che questa canzone, il mio canto libero, 40 anni fa, nel 1973, conquistava i primi posti nelle classifiche delle Hit Parade. E Lucio Battisti, un grande della canzone, che ha cambiato il modo di cantare, che ha cambiato il modo di interpretare le canzoni, che ha cambiato anche il modo di fare delle canzoni che parlassero ai sentimenti, anche grazie al sodalizio con Mogol. E quindi un tributo a Lucio Battisti, un tributo al grande cantante. Sentiamolo ancora un attimo. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. Nuove sensazioni, giovani emozioni, speriamo di poter vivere delle giornate emozionanti, ma positivamente, costruttivamente, in questo paese un po' complicato. Buongiorno Roberto Bertinetti. Buongiorno. Docente di letteratura inglese all'Università di Trieste, con lui parleremo un po' anche di Gran Bretagna, oltre che di Trieste magari. E buongiorno Marcello Lunelli. Buongiorno Gianfranco. Marcello Lunelli, vicepresidente di Cantine Ferrari, sì, Spumanti Ferrari. In questi giorni c'è il Vinitaly, una delle più grandi rassegne di vini. Il vino è una delle grandi realtà economiche italiane, e in questi giorni c'è anche il Salone del Mobile a Milano, ne parleremo nei prossimi giorni, una delle grandi industrie, una delle industrie di punta italiane che cercano di mantenere delle posizioni di primo piano. Allora, Marcello Lunelli, che aria si respira al Vinitaly, tra i produttori di vino? Ma guarda, c'è un'aria molto, molto positiva, direi quasi spumeggiante. Ieri c'era tanta gente, nonostante così il tempo e la giornata uggiosa. Ti ringrazio della domanda della musica di Battisti all'inizio, perché ascoltando le parole sembrerebbe un canto dedicato all'agricoltura, no? Giovani emozioni, nuovi paesaggi, perché effettivamente in questo momento l'agricoltura sta dando una prospettiva ai giovani con possibilità di lavoro inaspettate fino a poco tempo fa, e quindi insomma si respira un'aria positiva, nonostante il mercato, soprattutto il mercato interno, è abbastanza stabile, vista anche la situazione nostra. Certo, ma paese. Questo è interessante, perché proprio l'agricoltura è uno dei settori, anzi l'unico settore, che ha visto crescere l'occupazione nell'ultimo anno. I giornali di oggi danno con grande spazio il fatto che i dati dicono che l'anno scorso ci sono stati 1 milione di licenziamenti, soprattutto i giovani hanno grosse difficoltà nell'occupazione. E è da sottolineare che i posti di agricoltura non sono solo posti di ritorno alla terra, di zappatori, ma sono posti anche di alta professionalità, sono posti di alta capacità e che richiedono appunto una preparazione specifica. In questo senso l'agricoltura è qualcosa di sempre più specializzato, Lunelli. Sì, assolutamente sì. Mi viene in mente che quest'anno Vinitaly ha puntato molto sulla Cina per organizzare contatti. È venuta una delegazione del Ministero dell'Economia e un primo incontro che dava un po' il senso di cosa significa la Cina per il nostro mondo a livello potenziale. C'erano alcuni operatori del web con appunto responsabili di grandi network di vendite per corrispondenza su internet. Insomma, i numeri sono, ci sono certi operatori che vendono dalle 80 alle 100.000 bottiglie al giorno via internet, e quindi c'è tutto un mercato da esplorare, da capire, e ci vogliono anche professionalità capaci di inserirsi in questo mondo sempre più complicato. Non serve solo fare un vino buono, ma adesso bisogna inserirsi nei mercati internazionali e farlo arrivare al consumatore finale. E che sia capace di dare, come diceva Battisti, delle giovani emozioni, speriamo. Ecco, con Roberto Bertinetti volevo parlare di un tema che poi svilupperemo nella seconda parte di 24 mattina dopo le 8:15, quello della moneta unica europea e delle possibilità di avere delle formule alternative di moneta. Però con Bertinetti, che è un grande esperto della società inglese, tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore c'è un'intervista a David Cameron, se ne avremo tempo ne parleremo. Però una prima domanda è questa: la Gran Bretagna è un paese che è fuori dall'euro, che non ha la moneta unica europea, una moneta unica europea che è vista da molti come un elemento di ostacolo, soprattutto per i paesi del Mediterraneo. C'è una crescente idea di uscire dall'euro per risolvere alcuni problemi. La Gran Bretagna è fuori dall'euro, non vuole entrare, ma i problemi li ha lo stesso, Bertinetti. Ne ha tantissimi. Di pochi giorni fa l'avvio di una riduzione della spesa pubblica per il welfare di oltre 50 miliardi di sterline, che sta provocando enormi polemiche per gli effetti che avrà sulla parte più debole della popolazione. La ripresa, a detta dei ministri economici, ci sarà soltanto nel 2018, quindi il fatto di essere fuori dall'euro non ha assicurato nessuna prospettiva di crescita rispetto ad altre nazioni che invece dentro l'euro ci sono, per quanto riguarda la Gran Bretagna. Quindi la Gran Bretagna, diciamo, non vuole entrare nell'euro, ma comunque ha dei grandi problemi ugualmente. Cameron si trova di fronte al fatto di dover affrontare i problemi della crisi economica, una crisi che non è una crisi nazionale, ma è una crisi globale, in cui ogni paese cerca di trovare una propria soluzione. In questa intervista Sole 24 Ore, infatti, Cameron riconferma la propria solidarietà europea, anche se chiede di volere appunto un'Europa più flessibile, più dinamica, più capace appunto di aiutare i singoli paesi ad affrontare il problema. Ecco, ma Bertinetti, sei un esperto di letteratura inglese, a cosa stai lavorando sul fronte della letteratura inglese? Ma sul fronte della letteratura inglese mi sono occupato di una scrittrice che si chiama Hilary Mantel, che è la scrittrice del momento in Gran Bretagna, perché ha vinto i premi più importanti tra il 2009 e il 2012, e è appena uscita l'edizione italiana del secondo romanzo che lei sta dedicando all'epoca Tudor, a Enrico VIII precisamente. Il romanzo si chiama Anna Bolena, una questione di famiglia. È stato libro dell'anno per il 2012 sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, ed è appena uscito per Fazzi in Italia. E questa settimana invece uscirà un'edizione di uno dei romanzi di Jane Austen che si chiama Mansfield Park per Einaudi. Queste sono le cose di cui mi sto occupando sul fronte della letteratura inglese. Quindi vivace, anche se appunto riscoprire queste cose un po' del passato è certamente importante. Sentiamo ancora un attimo Battisti, se abbiamo una canzone che ci possa introdurre il prossimo appuntamento. Mattino. E allora viaggiamo insieme in questa mattinata 8 aprile del 2013. Buongiorno Michele Satta. Buongiorno. Michele Satta, anche lui come Marcello Lunelli, produttore di vino, Lunelli in Trentino, Satta in Toscana, a Bolgheri. Ecco, vini che sono arrivati fino alla Casa Bianca, mi sembra. Ma sì, si è parlato tanto di questo, sì. È stata una scelta che Obama ha fatto per festeggiare la moglie, ma questo mi ha dato molta visibilità e quindi ho, ri- mettere tutto su questi modi moderni di lanciare nel mondo le notizie. Ecco, ma lanciare nel mondo le notizie è compito di noi giornalisti, a voi il compito di lanciare nel mondo i vini. Come sono i vini che piacciono nel mondo adesso? Come è cambiato il modo di fare vino da 20 anni a questa parte? Ma direi che dopo una prima fase in cui l'accento è stato su fare vini molto importanti, molto concentrati, molto pieni di sensazioni, adesso si torna un po' a un concetto di bevibilità, di eleganza, di allegria, un concetto di un estetico più, se posso dire, un po' più allegro, un po' più quotidiano. Ma c'è anche della tecnologia nel fare i vini? Tantissima, il vino da sempre riflette tutta la cultura umana e oggi che è molto tecnologica, c'è molta capacità di manipolazione. Ecco, manipolazione è qualcosa che è una parola che non dovrebbe usare uno che produce vini. Marcello Lunelli. Infatti, no, ma manipolazione può voler dire tutto e voler dire niente. Saluto Michele, che anche lui è impegnato in questi giorni al Vinitaly. Michele voleva dire che la tecnologia ci serve per cercare di governare certi processi, certi fenomeni a cui l'agricoltura sottostà e che può controllare solo fino a un certo punto. Vediamo i fenomeni meteorologici che sono alla base poi dell'uva che poi arriva in cantina. Quindi la tecnologia ci serve per capire come il clima può influenzare la sanità, la crescita, lo sviluppo delle nostre uve, degli aromi che influenzeranno poi il risultato finale e quindi anche la caratteristica dei vini stessi. E poi in cantina si cerca di usare meno tecnologia quando si è lavorato bene in campagna, ma per usare meno tecnologia bisogna usarla e si usa altra tecnologia di conoscenza per indirizzare poi il processo tecnologico. Mi viene in mente il grande argomento dei lieviti che noi dobbiamo utilizzare per trasformare il succo d'uva in vino, quindi una grande tecnologia per la conoscenza e la selezione dei lieviti nostri in cantina per caratterizzare meglio i vini. Ecco qua, quindi c'è una tecnologia non nel senso come avevi paventato tu di dire ma come voi del mondo del vino, no, è una tecnologia al servizio del vino e della naturalità del vino. Ecco, allora Michele Satta, appunto, manipolazione in senso buono per far sì che la tecnologia aiuti il vino e la natura ad essere sempre più naturale, Michele Satta. No, la provocazione è proprio in questo senso, perché l'agricoltore, che nella nostra immagine forse l'esempio più alto di naturalità, è assolutamente tecnologico, cioè che possiamo usare degli strumenti per collaborare con la natura è straordinario, oggi ce ne sono molti e raffinati e quindi l'uomo è provocato a essere molto più agricoltore, è provocato anche a essere molto più naturale. E questo è il compito in qualche modo morale che abbiamo noi, cioè di fare arrivare al consumatore un pezzetto della natura che è stato trasformato e diventato vino. E quindi questa attenzione vuol dire essere totalmente capaci di usare la tecnica al servizio dell'espressione naturale. Ecco, allora Roberto Bertinetti, da letterato, come può vedere la letteratura, la natura, il vino, la possibilità di emozionarsi attraverso le cose naturali, la possibilità di emozionarsi attraverso il piacere appunto di un buon bicchiere di vino, forse non a quest'ora del mattino, ecco, un po' più avanti. Io avevo un professore di scienze e quando qualcuno faceva qualcosa di non troppo buono diceva ma tu stamattina hai fatto colazione con Lambrusco. Ecco, forse non è il caso di fare queste cose, però ecco, un po' di emozione la natura la riesce a dare, la letteratura può dare emozioni uguali a queste? Ma la letteratura da sempre ha cercato di dare emozioni, se non uguali a queste, comunque di raccontare le emozioni che queste cose possono dare. Per quanto riguarda quella inglese, beh, naturalmente possiamo partire dalla grande epoca del teatro elisabettiano, ma poi planare tranquillamente all'epoca del primo romanticismo, secondo romanticismo dell'Ottocento, insomma, diciamo che per gli inglesi, ma non soltanto per loro, la natura e le emozioni che la natura danno hanno avuto un grande ruolo nella letteratura. Allora, dove puntiamo adesso, Michele Satta e Marcello Lunelli? Dove punta il vino italiano? Quali sono i mercati più promettenti? Michele Satta. Ah, io credo che il mercato statisticamente in questo momento più attraente è il mercato dell'Asia, in particolare la Cina, perché ha un potenziale immenso di sviluppo e anche di comunicazione culturale. E non trascuro però il mercato nostro, tradizionale, occidentale, Europa e America, che sono più capaci di trovare subito delle identità nel vino, una cultura più profonda di scelta del vino di un certo posto. Marcello Lunelli mi sembra che sia d'accordo, aveva già anticipato prima sull'attenzione alla Cina. Assolutamente, confermo. Dobbiamo guardare a quella parte del mondo e capire anche il linguaggio, soprattutto che noi europei dobbiamo cambiare, sviluppare per farci capire meglio da quella parte di popolazione mondiale che conosce poco il vino e il linguaggio del vino, anche per farlo capire, non dimenticandoci però dei nostri mercati tradizionali, sia quelli esteri tradizionali, l'Europa e l'America, ed anche del mercato italiano, perché io sono convinto che dobbiamo credere ancora nel nostro paese, nell'Italia, aiutando anche chi in questo momento ha delle difficoltà, perché è il mercato che più ci capisce, che più ci apprezza, col quale abbiamo un feeling maggiore, e quindi deve essere sempre comunque un mercato al quale tutte le aziende devono guardare anche con affetto. E speriamo di poter avere qualcosa da festeggiare, da poter essere un po' felici ed emozionati nei prossimi mesi in questa Italia così opaca secondo le notizie di questi giorni. Grazie a Michele Satta, a Roberto Bertinetti, a Marcello Lunelli di essere stati con noi. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Buongiorno, bentornati da Gianfranco Fabia. 24 mattino, vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri messaggi sms. Dalle 8:30 potete chiamare all'800-24-0024 nella seconda parte, dopo la rassegna stampa che ci impegnerà nei prossimi tre quarti d'ora. Parleremo di moneta complementare. C'è qualche possibilità di uscire dalla stretta al credito, di dare qualche soldo in più ai cittadini, una moneta che possa affiancare l'euro? Un po' una provocazione. Ne parliamo, mandateci i vostri messaggi e poi chiamate dopo le 8:30 per fare sentire le vostre idee. Ma cominciamo a guardare i giornali di oggi. Direi che il titolo che domina su tutti i giornali è quello dei licenziati. 1 milione di licenziati, dice Il Giorno. Emergenza lavoro, i dati shock del 2012, riforma Fornero nel mirino, troppi paletti. A Milano sale riservata immensa ai nuovi poveri, gli stranieri fuggono in Svizzera. E lo stesso tema dei licenziati è ripreso dalla Stampa, è ripreso dal Messaggero, dall'Unità, dal Giornale, e tutti mettono in luce questa nuova emergenza. Ma a fianco di questa vi sono comunque i titoli della politica che dominano in fondo sulla Repubblica. Bersani no al governissimo, una lettera del segretario del Partito Democratico alla Repubblica dopo le aperture di alcuni dirigenti al PDL, mentre il Corriere della Sera parte dai dati del lavoro e dice: l'atto di accusa delle imprese, noi chiudiamo, voi discutete del prezzo del caffè alla buvette. C'è un articolo e un'ampia inchiesta di Dario Di Vico, che ha sentito molti esponenti delle imprese, delle piccole imprese, soprattutto locali del Veneto, dell'Emilia, della Lombardia, anche in vista dell'incontro che Confindustria ha organizzato per il fine settimana a Torino, in cui il titolo di fondo sarà Il tempo è scaduto. Confindustria chiama raccolta nel fine settimana le piccole imprese, lo slogan del convegno appunto è Il tempo è scaduto. Sul Corriere della Sera un articolo editoriale di Ernesto Galli della Loggia: alla periferica appartenenza, la Chiesa e l'immagine del Paese. sembra quasi riecheggiare, non lo cita Galli della Loggia, quanto diceva Matteo Renzi nei giorni scorsi: la Chiesa, che ha dei tempi lunghi, ha fatto in fretta a risolvere il problema della successione a Benedetto XVI, la politica è ancora nel pantano. E Ernesto Galli della Loggia parla dei ritardi della Chiesa, se avremo tempo lo vedremo tra poco, su appunto, per citare alcuni stralci di questo sempre interessante articolo di Galli della Loggia. Ma vi dicevo, il tema dell'occupazione è in primo piano su tutti i giornali, sulla Stampa, licenziati, nuova emergenza, e c'è un editoriale e un approfondimento di Walter Passerini, tre strade per creare occupazione. Passerini sottolinea il fatto che ci vuole una terapia d'urto, con almeno una manovra che abbia tre dimensioni: da una parte la riduzione del costo del lavoro con incentivi strutturali alle assunzioni, dall'altra la riduzione del cuneo fiscale con il rapporto tra stipendi lordi e netti per dare una boccata di ossigeno a famiglie e imprese. Poi il secondo, dice Passerini, la rete di servizi al lavoro pubblici e privati, anziché condannarsi al piccolo cabotaggio, può assumere un ruolo da protagonista nel nuovo mercato del lavoro. 3 milioni di disoccupati sono un macigno altrettanto importante della voragine del debito pubblico, che ci chiede di abbandonare la politica dei due tempi: prima il rigore, poi lo sviluppo; prima i conti in ordine, poi la ripresa; prima il deficit, poi il lavoro. Una nuova classe dirigente dovrà dimostrare coraggio, lungimiranza e inventiva adeguati ai tempi che viviamo. I disoccupati non sono un incidente di percorso, un inciampo ai progetti di risanamento, sono risorse, non rottami. Ricollocarli attraverso una gigantesca campagna di outplacement, di ritorno al lavoro, rimette in gioco risorse che non sono perdute, ma che possono essere rimotivate. E poi Passerini parla appunto della necessità anche di varare nuove politiche sul fronte della salvaguardia dell'ambiente, della green economy, della manutenzione del paesaggio del territorio, tutte possibilità e opportunità che una classe politica, se esistesse, dovrebbe affrontare. Una classe politica che è ancora ferma. Vi citavo prima l'articolo di Dario Di Vico: noi chiudiamo, voi discutete del caffè alla buvette. E Dario Di Vico scrive appunto: nella mappa dell'imprenditoria italiana gli emiliani vengono considerati da sempre dei moderati, non protestano in piè sospinto e tutto sommato hanno sempre avuto un rapporto positivo con la politica, ma adesso il loro sentimento sta cambiando, dice Maurizio Marchesini, presidente della Confindustria. Da 40 giorni si discute del prezzo del caffè alla buvette di Montecitorio e intanto attorno ci casca il mondo e si stanno perdendo occasioni di sviluppo. Ecco, sullo stesso fronte, vi dicevo, l'Unità, 1 milione di licenziamenti, e anche il commento che fa Nicola Porro sul Giornale, il giornale diretto da Alessandro Sallusti, e parla di pressione dei numeri. Osserva Nicola Porro: approfondiamo energie, dibattite enorme per combattere l'evasione fiscale, non comprendendo come essa sia figlia dell'eccesso di fiscalità. Il problema non è l'evasione fiscale, ma l'esproprio fiscale, per il quale i privati non hanno alcun incentivo a produrre, a competere in settori non protetti. Ci occupiamo, dice ancora Nicola Porro, ci occupiamo ossessivamente a tutti i livelli di coloro che violano le regole, cerchiamo di prevenire i comportamenti con una legislazione minuziosa e ossessiva. Il problema oggi è l'eccesso di regole e dei loro sacerdoti, burocrazie e legali, non di coloro che le trasgrediscono. 24 mattino. Eccoci ancora, buongiorno a Gianfranco Fabi, a leggere i giornali di oggi. Abbiamo concluso la parte precedente citando Nicola Porro sulla necessità di semplificare il sistema, e uno shock tributario per aiutare l'economia è il titolo di fondo del Fondo del Sole 24 Ore di Angelo Cremonese, un docente di diritto tributario, di economia dei tributi all'Università di Roma. Uno shock tributario perché il titolo grande del Sole 24 Ore, il titolo di apertura, è il rischio evasione aumenta con la crisi, e appunto Cremonese chiede una profonda semplificazione, un forte alleggerimento in termini di adempimenti. Vanno visti come un intervento prioritario per evitare che continui a pesare sulle nostre imprese un gap concorrenziale con i concorrenti stranieri, che già possono contare su un cuneo fiscale, un costo del lavoro e una produttività molto diversi dai nostri. In caso contrario, i dati allarmanti su produzione industriale, numero delle nuove imprese, migrazione all'estero di quelle esistenti, nuovi investimenti investimenti internazionali continueranno a percorrere la strada del declino che ormai da anni sembra inarrestabile. Angelo Cremonese sul Sole 24 Ore di oggi. Ecco, quindi un atto di denuncia verso la burocrazia. I giornali parlano ancora del provvedimento del governo per restituire i soldi alle imprese, per sanare il problema dei debiti delle imprese, e sulla Stampa ci sono quattro interviste particolarmente interessanti proprio su questo tema della semplificazione. È Giacomo Vacciago, docente di economia alla Cattolica, che dice: un pastrocchio, è un sistema che non funzionerà mai, la burocrazia soffoca tutto. E Vacciago, appunto, che ricorda di essere stato sindaco di Piacenza per 4 anni, e dice che in Italia le regole sono talmente complesse che non si riesce praticamente a fare nulla. La prima risposta, infatti, dice: le faccio un esempio, risponde Giacomo Vacciago. Nel maggio dello scorso anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno stanziamento urgente per le zone terremotate dell'Emilia, 12 miliardi, cifra importante, emergenza massima, giusto? A distanza di 6 mesi, conclude Giacomo Vacciago, non era stato erogato neppure un euro. E parliamo di emergenza. Questa è la realtà di una situazione, appunto, italiana, che è complessa, che è certamente difficile, ma in cui ci vorrebbe una politica capace di intervenire, capace di affrontare i problemi e di iniziare, se vogliamo, una soluzione che non sarà certamente facile, ma che comunque, se non si inizia a lavorare, non si può fare nulla. E sul fronte della politica, appunto, vi dicevo, la lettera di Bersani alla Repubblica, che sottolinea che il fatto che continua a portare avanti la sua proposta, anche se cresce all'interno del suo partito, non tanto una affronta quanto una sottolineatura che la realtà è diversa da quella che lo stesso Bersani si sta augurando. E la Repubblica, appunto, sottolinea i punti principali di questa lettera. Non intendo certo essere d'intralcio, scrive Bersani, se ci sono altre proposte di cambiamento, nessuna difficoltà a sostenerle. Pierluigi Bersani non ci sta a passare come affetto da una sorta di puntiglio che lo porterebbe a volere ad ogni costo la guida del governo, a bloccare soluzioni alternative facendo perdere tempo prezioso al paese. Allora, appunto, scrive la stessa Repubblica, perde carta e penna e scrive una lettera che prende spunto da un passaggio dell'editoriale di domenica di Eugenio Scalfari, che ha scritto: non condivido la tenacia con cui Bersani ripropone la sua candidatura. E la risposta di Bersani è: l'osservazione è inserita al solito in un contesto amichevole e rispettoso, di cui ringrazio. E Bersani continua: ci sono state critiche aggressive e talvolta ottaggiose, inesauribili e stupefacenti dietrologie e persino analisi psicologiche di chi si è avventurosamente inoltrato nei miei stati d'animo. Allora, sottolinea Bersani, ripeto quello che ho sempre detto: io ci sono se sono utile, non intendo certo essere di intralcio. Esistono altre proposte in un paese in tumulto, non contraddicano l'esigenza di cambiamento e che prescindono dalla mia persona, nessuna difficoltà a sostenerle. Quanto scrive il segretario del Partito Democratico, un Partito Democratico in cui continua in questi giorni dibattito interno, comunque un dibattito interno che prende atto praticamente del fallimento della proposta di Bersani, dei no che ha avuto sul fronte dei suoi potenziali alleati, anche se qualcosa lentamente comincia a muoversi, ma molto lentamente, sul fronte del Movimento 5 Stelle. Ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. Sui giornali di oggi, restiamo ai giornali di oggi, c'è anche uno spazio alla manifestazione della Lega, tradizionale manifestazione della Lega a Pontida, tradizionale anche se l'anno scorso la Lega non se l'è sentita di organizzarla, erano i tempi degli scandali interni, della battaglia al vertice dei diamanti del tesoriere Belsito, è stato significativo il fatto che Maroni ieri sventolasse delle buste in cui avrebbero dovuto essere contenuti questi diamanti acquistati con i finanziamenti pubblico ai partiti. E la Lega di Maroni è messa, è analizzata da Ivo Diamanti sempre su Repubblica. Al di là di tutto, scrive Ivo Diamanti, resta la questione di fondo: la Lega si è normalizzata, in altri termini si è trasformata in un partito normale, come gli altri partiti, più di altri partiti, perché si è radicata sul territorio, dispone di molti iscritti, molte sezioni e molto militanti, e di molti eletti, sindaci, presidenti di provincia, oltre a 3 governatori. Ciò le garantisce un buon grado di resistenza anche di fronte alle crisi e le permette di mobilitare ancora molte persone alle sue manifestazioni, come è avvenuto ieri, anche se meno e sempre più anziane del passato, osserva Ivo Diamanti. La Lega è dunque un partito più partito degli altri. Intorno ai suoi parlamentari, ai suoi governatori, ai suoi amministratori c'è una rete di consulenti e collaboratori molto ampia. Come gli altri partiti, la Lega dispone di un ceto politico professionalizzato, di una struttura in parte burocratizzata. Al tempo stesso, però, oggi appare diversa del passato, quando si presentava personalizzata, fondata su un leader carismatico, Umberto Bossi. Oggi, invece, appare acefala, sottolinea Ivo Diamanti, perché Maroni non è Bossi, è un leader, non il leader, il governatore della Lombardia, non il padre della Padania. La Lega, infine, è divisa in correnti, bossiani e maroniti, rammenta altri partiti del passato più che del presente. Questa era l'osservazione critica ma acuta di Ivo Diamanti sulla Repubblica. E di partito parla anche il Foglio Quotidiano, ripubblicando un articolo, non ripubblicando perché il Foglio nel 1963 non esisteva, ma pubblicando un articolo del 1963 di Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, un segretario, il perché di questa ripubblicazione si spiega da solo. Infatti Togliatti scrive: l'idea, l'esistenza dei partiti politici è indispensabile per l'esistenza stessa e per lo sviluppo di un regime di democrazia. Non è concepibile oggi una società democratica nel quale non esista il partito politico. La tendenza a ridurre in questa società la funzione del partito politico e la sua importanza, la tendenza a denunciare e l'intervento continuo del partito politico nella vita democratica come elemento di disturbo e quasi di degenerazione è una tendenza da considerarsi nettamente reazionaria. Ricordiamo, sono parole di Palmiro Togliatti, dicembre 1963. Ciò non vuol dire che non possano esservi nelle attività dei partiti e soprattutto dei partiti di governo momenti che devono venire criticati e respinti in quanto tendono a sostituire alla democrazia una specie di oligarchia dei gruppi dirigenti. L'essenziale però è che senza un'attività continua dei partiti non può esistere democrazia politica. Nel 1963 Togliatti denunciava l'oligarchia dei gruppi dirigenti dei partiti. Poteva forse scriverlo anche l'altro giorno, anche ieri, anche oggi. 24 mattino. Eccoci per la nostra ultima parte della rassegna stampa. Saluto Marco Biscella. Buongiorno a tutti. Marco Biscella, caporedattore del Sole 24 Ore del lunedì. Parliamo brevemente del Sole del lunedì di oggi. Il rischio evasione aumenta con la crisi, ma anche un'intervista a David Cameron. I trattati devono essere rivisti, vogliamo un'Europa flessibile. E quali altre cose, Marco Biscella? Ma oltre a questo tema sul rischio evasione, che è la nostra apertura, e l'intervista a David Cameron che ha concesso in esclusiva proprio il Sole 24 Ore per il giornale, noi abbiamo anche un intervento, diciamo, più legato ad alcuni dei lettori tipici del Sole del lunedì, che sono i professionisti, perché dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale possono far partire dal 22 aprile le società tra professionisti, quindi la possibilità di creare dei network tra discipline diverse, e noi a quel punto offriamo ai professionisti una sorta di guida in modo tale che attraverso 5 mosse possano dare vita a queste società tra professionisti. Ecco, c'è anche un'altra guida, mi sembra, dedicata al condominio? Eh sì, c'è una guida dedicata al condominio, perché sono entrate in vigore parecchie novità, soprattutto dal punto di vista dei compiti dell'amministratore, sulla ridefinizione dei millesimi, sulle maggioranze, perché cambieranno diverse maggioranze per prendere alcune decisioni, sia per quanto riguarda l'attività, diciamo, ordinaria e quella di straordinaria della gestione dei condomini. Quindi è una guida di 4 pagine molto ricca, è molto utile a condomini e amministratori di condominio. Grazie Marco Biscella. Allora ricordiamo anche questa intervista a Cameron, particolarmente interessante, un'Europa flessibile chiesta appunto dal leader inglese, leader che peraltro, come dicevamo nella prima parte di 24 mattina, per chi ci ha seguito, qualche problema in casa ce l'ha. Grazie Marco Biscella. Continuiamo nella nostra lettura dei giornali. Ecco, sul fronte della sempre dei problemi legati alla pubblica amministrazione, segnalo il titolo molto critico di Italia Oggi: pubblica amministrazione, pagamenti surreali, la macchina dello Stato si sta incartando per risolvere un problema elementare, saldare i propri debiti, anni di tentativi e zero risultati. Sul fronte della Lega, vi avevo parlato prima del commento di Ivo Diamanti, ecco, c'è anche un editoriale del Messaggero, possiamo dire la Lega vista da Roma, vista un po', ieri è tornato Maroni ad accusare appunto Roma, dando questo ultimatum al governo di Roma perché appunto accolga le richieste della Lega. E c'è un editoriale di Alessandro Campi in cui si dice, nel suo discorso dice Campi: oltre alla trovata propagandistica dei diamanti di Belsito restituiti al popolo padano, dopo un anno ancora non erano stati venduti, si chiede Campi, Maroni ha provato a lanciare qualche nuova suggestione di stampo vagamente ambientalista, ha denunciato ad esempio l'eccessivo consumo del territorio e chiesto una sua maggiore salvaguardia, stando attenti però a non danneggiare gli imprenditori. Ma per strappare applausi di consenso ha dovuto tornare anche lui, come un tempo a Bossi, a inveire contro Roma che depreda le ricchezze del nord, a prendersela con la stampa, ormai uno sport nazionale, e a promettere, tanto non costa nulla e sui militanti più ortodossi fa sempre un certo effetto, che la Padania presto o tardi diventerà uno stato libero e indipendente. E c'è un po' di ironia molto esplicita in questo commento di Alessandro Campi su Il Messaggero di Roma, che appunto parla della Padania vista da Roma. Vi dicevo, forse merita una piccola attenzione l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, una periferica appartenenza, si riferisce alla Chiesa e all'immagine del paese, e sottolinea Galli della Loggia come vi ci siano molte correlazioni tra la crisi del sistema politico italiano, la crisi della leadership italiana e la crisi della Chiesa italiana, una Chiesa che da molti anni, da 50 anni, non esprime un Papa italiano. E questo è proprio l'attacco del pezzo di Galli della Loggia: troppo antico e profondo il legame storico tra la penisola e il cattolicesimo perché possa passare inosservato il fatto che con l'elezione di Papa Francesco ormai da circa mezzo secolo che a Roma non siede più un Papa italiano. E Galli della Loggia osserva: c'è un problema di qualità del personale ecclesiastico, in specie del suo vertice, il sommarsi della forte secolarizzazione della società con il mantenimento però da parte dell'alto clero di un forte potere istituzionale di influenza che ha prodotto nella gerarchia cattolica molti aspetti di quella stessa degenerazione castale che ha colpito tanta parte dell'elite italiana. Autoreferenzialità, gerontocrazia, carrierismo con relativi accordi di cordata, prevalere di una comunicazione pubblica sempre più vuota e formale, criteri di cooptazione in base soprattutto alla docilità e all'obbedienza. Questi caratteri tipici della classe dirigente della penisola si ritrovano più o meno tali anche tra coloro che occupano posti di comando nella Chiesa italiana. Questa è l'analisi che è anche un po' un atto di accusa di Ernesto Galli della Loggia, dell'editoriale del Corriere della Sera. Vi vorrei sottolineare, andando verso la conclusione, un articolo di Federico Rampini su La Repubblica, in cui si parla di piccoli Keynes crescono l'economia per ragazzini, cioè il fatto che soprattutto negli Stati Uniti si inizia a cercare di insegnare l'economia fin da piccoli, l'ABC, alfabetizzazione economica di massa, scrive Federico Rampini. È l'avvertimento lanciato dal banchiere centrale più potente del mondo, Ben Bernanke: insegnare l'ABC dell'economia fin dai banchi di scuola. Un'idea che sta già facendosi strada, e infatti sottolinea Rampini come nelle scuole stia entrando un'economia che sta cercando di portare appunto una maggiore coscienza anche per evitare di cadere nelle crisi che abbiamo conosciuto in passato, e per esempio la crisi dei mutui subprime. Vi sottolineo da Il Giornale un grande titolo sulle inchieste del giornale: tutta la verità sui Marò, testimonianze, foto e documenti inediti sull'odissea dei nostri fucilieri di marina raccolti in un libro, con il retroscena dello scontro diplomatico tra l'Italia e l'India. E questo è l'annuncio di un libro che sarà in edicola domani con Il Giornale. C'è anche un intervento dell'ex ministro degli esteri Giulio Terzi, quel dietro front che ancora non giustifico. Ancora sulla prima pagina del Giornale, l'articolo tradizionale ormai di Francesco Alberoni: ecco perché il fanatismo dei grillini fa paura per i 5 Stelle. Chi non la pensa come loro è pericoloso e in malafede. Siamo in conclusione della nostra rassegna dei giornali. Vi posso citare il fatto che La Stampa pubblica il sondaggio, La Stampa Community Media Research, con un articolo di Daniele Marini: l'Italia si scopre post politica. Gli italiani valutano positivamente soprattutto le leadership orizzontali e responsabili delle associazioni con finalità sociali e del volontariato. Al più gli esponenti del mondo della cultura e dell'università, mentre è bocciato la classe politica. Questa è la ricerca svolta appunto all'interno della realtà italiana sull'apprezzamento degli italiani per le classi dirigenti, che trovate oggi sulla Stampa. E si conclude qui la nostra rassegna dei giornali. L'appuntamento è alle 8:15 per parlare di monete, per parlare di euro, per parlare di possibili alternative o complementi. Mattino, la politica nel tunnel. La politica nel tunnel, rieccoci qua a 24 mattina. Buongiorno da Gianfranco Parvi per quest'ultima parte del nostro programma. Vi ricordo l'800 24 00 24 per le vostre telefonate, il 349 238 6666 per i messaggi SMS. In quest'ultima parte parleremo di monete, parleremo di soldi, parleremo di come superare uno dei problemi dell'attuale situazione economica, la stretta creditizia, la difficoltà della domanda, la scarsità di monete a disposizione per tanti elementi, ma anche per un problema monetario. Parleremo anche di queste critiche che vengono mosse all'euro come moneta unica che avrebbe imbrigliato e penalizzato alcune economie. Buongiorno a Massimo Amato. Buongiorno a tutti. Massimo Amato, docente dell'Università Bocconi, esperto di monete complementari, coautore con Luca Fantaci del libro Come salvare il capitalismo. No, e Come salvare il mercato dal Come salvare il mercato dal capitalismo, e responsabile scientifico del progetto per creare una moneta complementare a Nant. E su questo tema, tra l'altro, Massimo Amato sta anche studiando quello che ha un po' annunciato il nuovo governatore della Lombardia, Roberto Maroni. Insediandosi, Maroni ha annunciato l'idea, la volontà di studiare la possibilità di introdurre una moneta. Il professor Amato non l'ha ancora chiamata per nome, se si chiamava Lombard o Maronia, non si sappiamo come si chiamerà questa moneta. Comunque la possibilità di studiare una moneta complementare che non sostituisca l'euro, ma che possa aiutare le persone, le imprese, le famiglie nei loro pagamenti. E saluto anche Beda Romano. Buongiorno Beda Romano. Buongiorno. Corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, dopo essere stato a lungo a Francoforte. Ecco, io vorrei iniziare da Beda Romano. Sembra crescere in Europa una certa ostilità verso la moneta unica europea. Cosa si pensa nei palazzi di Bruxelles? Ma è evidente che è un fenomeno che preoccupa. Non so se la definirei ostilità o disaffezione. Potremmo discuterne. Però è evidente che c'è in vari paesi europei un movimento contrario all'euro, comunque euroscettico, e lo vediamo in molti movimenti populistici che stanno emergendo in alcuni paesi, Italia, Olanda, Francia e per certi versi anche in Germania. È un fenomeno che preoccupa perché le autorità comunitarie non sanno fin quanto possa essere serio e non sanno fin quanto lontano possa andare. La grande preoccupazione delle autorità comunitarie è di vedere queste forme di euroscetticismo mettere radici nei partiti più tradizionali dello scacchiere politico dei vari paesi. In altre parole, sono evidentemente preoccupati dall'emergere di partiti populistici classici in alcuni paesi, ma la cosa che più li preoccupa è di vedere come alcuni partiti tradizionali peschino in queste frange populistiche della popolazione. Ecco, ieri sera in un programma di La 7 è stato pubblicato un sondaggio in cui si diceva, rispondendo alla domanda converrebbe uscire dalla moneta unica all'Italia, il 44% era favorevole e il 56% era contrario, cioè nel giudicare se converrebbe o meno uscire. Quindi direi una grande minoranza di persone giudica appunto con scetticismo, diciamo magari con ostilità, ma con scetticismo la moneta unica. Ma concretamente non esiste un piano B, un piano che possa prevedere l'uscita di qualche paese dall'euro. Mi sembra che l'Unione Europea, Beda Romano, sia almeno al vertice unita nel difendere e nel, se vogliamo però anche in questo, superare i problemi attuali della moneta unica? Non c'è dubbio, anche perché uscire dalla moneta unica significherebbe, al di là degli aspetti politici, sociali ed economici, uno sforzo organizzativo enorme e peraltro molto costoso. No, assolutamente nessuna istituzione europea ha un piano B e pensa di andare in quella direzione in questo momento. Il tentativo in questo momento è cercare di risolvere la crisi economica e lo sconquasso finanziario, che sono bene o male alla radice di questa ostilità, disaffezione, euroscetticismo che sta montando in molti paesi. Ecco, un euroscetticismo che è dimostrato, i primi due messaggi che sono arrivati in questi 5 minuti dicono proprio: l'euro ha distrutto l'economia europea, l'Europa non è questione di euroscettici, bisogna farla finita con gli euroburocrati e con gli eurotecnici. Quindi c'è un sentimento abbastanza, diciamo, non diffuso, ma che non è forse maggioranza, ma che comunque sta prendendo un po' piede nel cercare forse nell'euro un capo espiatorio. Beda Romano, so che tra pochi minuti devi lasciarci, però in questa prospettiva che cosa sta facendo concretamente l'Unione Europea per cercare di affrontare e per non forse far tornare ad amare la moneta unica come la moneta unica in fondo 10-12 anni fa aveva un po' entusiasmato anche in Italia che aveva una lira che ormai non valeva più niente, non esisteva neanche più una lira, quindi una moneta un po' più solida, con un euro si compra ancora qualcosa, si compra almeno un caffè. Ecco, cosa sta facendo l'Unione Europea per cercare di far tornare ad amare la moneta unica? Io partirei da una constatazione, cercherei di spiegarmi perché ci sono queste forme di populismo e di euroscetticismo che stanno montando in vari paesi. E la mia spiegazione è che stiamo affrontando una fase politica e storica di forte sfasamento tra le promesse nazionali dei leader politici e i loro impegni europei. In tutti i paesi i leader politici sono costretti ad avere due linguaggi. Quando sono a Bruxelles prendono impegni con i propri partner europei in una direzione. Quando tornano in patria spesso rinnegano queste promesse e hanno altri impegni con i propri elettori. Questo perché c'è uno sfasamento tra il livello nazionale e il livello europeo. Oggi si vota a livello nazionale, il rinnovo dei parlamenti è a livello nazionale, la nomina dei governi è a livello nazionale. Abbiamo sì un Parlamento europeo, ma questo Parlamento europeo non è sentito come tale dai cittadini. Questo sfasamento tra impegni europei e promesse nazionali porta a un discredito della classe politica tradizionale nei vari paesi. Quindi quello che bisogna cercare di fare, probabilmente, se questa tesi è giusta, è quella di rafforzare il livello europeo della rappresentanza democratica. E le prossime elezioni del Parlamento nel 2014 possono essere un momento importante. La Commissione, per rispondere alla sua domanda, qualche settimana fa ha affermato che i vari partiti politici europei devono presentarsi alle elezioni con un proprio candidato alla Commissione. È un primo passo in quella direzione. Probabilmente la cosa migliore in queste circostanze sarebbe di permettere agli elettori europei di votare e di eleggere il proprio presidente della Commissione. Non ci siamo ancora, ci vuole tempo, ma è questo sfasamento che va riempito per cercare di risolvere questo fronte euroscettico che sta montando. Grazie mille Beda Romano per queste precisazioni. Lasciamo andare i tuoi impegni per il Sole 24 Ore da Bruxelles. Ecco, il tema di fondo appunto è quello della credibilità dei partiti, della capacità dei partiti, dei capacità dei partiti di affrontare i problemi del paese. Un ascoltatore con un SMS mi chiede cosa voglio dire partiti populisti. Voglio dire partiti che si basano non tanto sulla concretezza dei problemi e soprattutto sulla concretezza delle soluzioni, ma si basano soprattutto sulla ricerca del consenso, facendo balenare delle prospettive che non sono realistiche, che non sono possibili, che non sono che possono soddisfare certamente qualche emozione fuggevole, ma poi alla fine non sono la soluzione dei problemi. E di fronte a problemi complessi non ci possono essere soluzioni certamente facili, soluzioni certamente che possono essere delle scorciatoie. E allora professor Massimo Amato, vediamo a lei, vediamo a questa ipotesi di moneta complementare. Diciamo subito che cosa può essere: non è un sostituto di una moneta unica o di una moneta nazionale. No, non è un sostituto della moneta unica, assolutamente, anzi, il nome stesso lo dice, complementarietà vuol dire che questa moneta si ancora alla moneta ufficiale e allo stesso tempo disegna uno spazio di circolazione preferenziale, ma assolutamente compatibile, ed è uno spazio di circolazione territoriale sostanzialmente. Quindi c'è un elemento di località, ma nel senso del territorio, non della chiusura localistica. Ecco, territorio intendiamo qualcosa di limitato, può essere una città, può essere una provincia, può essere forse una regione. La Lombardia è una regione che ha una dimensione pari a quella di uno Stato, quasi come l'Austria o la Svizzera. Potrebbe essere anche a livello di una regione, ma l'importante è che tener conto del fatto che questa moneta, la moneta complementare, serve gli scambi che avvengono all'interno di un territorio. Quindi qualunque sia la taglia, potrebbe essere anche una taglia nazionale, ma lasciamo perdere per il momento perché non è proprio il caso, ma a livello regionale la moneta complementare potrebbe servire gli scambi che avvengono fra operatori all'interno della regione Lombardia. Ecco, approfondiremo. Siccome la regione Lombardia è una regione esportatrice, è evidente che non si può pensare che questa moneta possa sostituire degli strumenti monetari che servono alle imprese per poter esportare e importare. 24 mattino. Eccoci di nuovo a voi, stiamo parlando di euro, stiamo parlando di monete, stiamo parlando di come affrontare questa crisi economica che in parte è dovuta sicuramente anche a degli elementi di difficoltà sul fronte dei pagamenti, ne abbiamo parlato moltissimo nei giorni scorsi, sul fronte del credito alle imprese, sul fronte della circolazione monetaria. Cerchiamo di parlarne in termini concreti, con possibilità operative che possano avere delle concretezze di attuazione e non, molti messaggi ci dicono, il populismo è quello che rispetta il volere del popolo. Siamo perfettamente d'accordo, il volere del popolo è fondamentale, ma purtroppo il popolo non ha la possibilità di creare delle situazioni diverse e bisogna fare i conti con la realtà. La realtà è quella che è, non è quella che vorremmo che fosse. Il populismo, si usa questo termine per indicare i partiti che fanno delle promesse che non possono mantenere, perché non si possono mantenere alcune promesse che non rispecchiano la realtà dei fatti, la realtà delle cose, la realtà dell'economia e della società e della realtà a cui dobbiamo essere legati. Professor Massimo Amato, docente alla Bocconi, esperto di monete complementari, abbiamo parlato molto dell'euro, qual è la relazione tra un'eventuale moneta complementare e la moneta unica europea? Professor Amato. Beh, innanzitutto vorrei intervenire su questa questione del populismo, perché è chiaro che il populismo è un problema, ma è un problema che rivela un problema, nel senso che i partiti populisti esistono se il popolo sta male. E allora, che poi offrano soluzioni molto spesso non fattibili, questo è vero. Resta il fatto che l'altra minaccia per la democrazia in questo momento è la tecnocrazia, cioè l'incapacità delle classi dirigenti di vedere che il popolo sta male e di offrire delle soluzioni viabili. Certo, allora, siamo perfettamente d'accordo. Perché altrimenti sembra che un giorno ci si sveglia populisti. No, il populista è chiaro che carezza il popolo nel verso del pelo, ma è un popolo che sta male, voglio dire. È il credit crunch, la difficoltà delle imprese a semplicemente produrre, il fatto che questa difficoltà si traduca in disoccupazione, queste sono questioni reali. E a questo punto, è qui che mi leggo, forse bisognerebbe avere il coraggio di dire che questa situazione dipende da come è stato costruito l'euro. Cioè, è inutile continuare a pensare che ci sia una congiuntura, uno tsunami, un fatto naturale che ci ha messo in una situazione per cui adesso bisogna fare dei sacrifici. L'euro è stato costruito male. Ecco, bisogna però stare attenti al fatto che bisogna chiedere alla politica di cambiare le cose che può cambiare, che non ci sono delle tradizioni sul fronte politico che vanno mantenute. Per esempio questa discussione attuale che il Parlamento sta aspettando il governo, il Parlamento è sovrano, deve fare le commissioni. Io su questo sono per esempio perfettamente d'accordo con Grillo, che dice il Parlamento lavori anche se non c'è il governo, fin dove può lavorare. Quindi il populismo non è assoluto, c'è anche delle cose di razionalità, perché la politica difende se stessa e noi sappiamo molto, molto bene come la politica cerca che di difendere se stessa, e quindi è giusto anche richiamare la politica a muoversi. No, su queste cose non mi pronuncio neanche, nel senso che osservo. Per invece venire alla questione dell'euro, del rapporto con le monete complementari, dicevo già prima che è chiaro che la moneta complementare per sua natura non nega l'esistenza di un'altra moneta, ma la implica. Forse bisognerebbe anche dal punto di vista metodologico e politico uscire da questa strana contrapposizione per cui o l'euro lo teniamo così com'è oppure ne usciamo. Ecco, francamente io penso che si possa cambiare qualche cosa anche a livello, diciamo così, della costruzione europea, e non necessariamente nel senso di una della costituzione di un'unione bancaria. Questa può essere un'ipotesi. L'altra ipotesi invece è quella di cominciare a lavorare con forme di credito e di rapporti economici diverse. Da questo punto di vista la camera di compensazione che stiamo costruendo a Nantes e che sostanzialmente è stata ripresa ed è stata autonomamente ripresa anche in Italia, per esempio da Sardex, tende a risolvere diciamo in modo alternativo la questione della scarsità di moneta. Non perché se ne crei della nuova, quindi la moneta complementare non è una moneta aggiuntiva creata con le stesse caratteristiche della moneta tradizionale, è una moneta che si crea e si distrugge sulla base degli scambi, cioè sulla base del fatto che invece di pagare con questa moneta, io con questa moneta registro dei debiti e registro dei crediti, e con i miei crediti che accumulo pago i miei debiti. Ecco, c'è un ascoltatore che dice: ma in fondo l'avevamo avuta qualche tempo fa con gli assegnini. In fondo chi fa un assegno crea una moneta complementare, l'assegno è garantito dai depositi che ha presso la banca, e questa non è una moneta contante in senso tradizionale, ma è una moneta complementare. Non è così? Non è così. L'assegno presuppone appunto in qualche, a parte che neanche l'assegno presuppone l'esistenza di un deposito precedente, perché se io ho un fido, se ho un'assegnazione di credito, certo, l'assegno lo emetto senza aver depositato niente, quindi c'è una creazione di denaro bancario. Il problema, la differenza di una camera di compensazione è che la moneta che viene creata deve essere necessariamente spesa all'interno del circuito. Allora è come se non ci fosse, allora diciamo la similitudine è con un assegno che venga scambiato solo fra clienti della stessa banca e che quindi non crei problemi di chiusura di cassa alla fine della giornata per la banca. Ecco, quindi in questa prospettiva qualcosa che si affianca, che aiuta gli scambi, che aiuta in fondo il mercato a funzionare, professor Amato. Che aiuta il mercato nel senso dell'economia reale, senza, diciamo, togliendo un elemento di pressione che in questo momento l'economia reale riceve dai mercati finanziari. Ecco, abbiamo in linea Pierluigi Paoletti. Buongiorno dottor Paoletti. Buongiorno a voi, buongiorno Massimo Amato. Che è buongiorno. Presidente dell'associazione Arcipelago Shek. Shek è sinonimo di assegno, però in questo caso significa qualcosa di diverso. No, in questo caso è l'acronimo di solidarietà che cammina, che passa di mano in mano, perché noi lavoriamo proprio su questo valore che secondo noi è importante per ricostruire le nostre comunità sia a livello economico che sociale. Oggi non c'è ombra di dubbio che la moneta che dovrebbe garantire la liquidità del sistema si sia accumulata solamente sui mercati finanziari. Infatti oggi le imprese scontano un credit crunch, una difficoltà estrema di ottenere credito da parte delle banche, quindi tutto il sistema si sta paralizzando. Noi cerchiamo di ricostruire quei legami fra domanda e produzione locale in maniera tale che gli scambi si rivitalizzino in funzione proprio del locale, in maniera tale che così sì, la circolazione di ricchezza implichi anche una soddisfazione a livello sociale, cosa che oggi purtroppo non è più. Ecco, la sua esperienza quindi è positiva, in questa prospettiva pensa che ci possa essere la possibilità di moltiplicare esperienze di questo tipo? Ma già il fatto che noi lavoriamo anche a livello sociale, perché non dimentichiamoci che l'economia ha delle ripercussioni importantissime a livello sociale, già il fatto della disoccupazione e delle tensioni anche a livello di popolazione, questa cosa ovviamente la manifesta, e noi cerchiamo proprio di aiutare in un momento che, ricordiamo, questa crisi non è una crisi normale come le altre, questa è una crisi di strutturale, una crisi di sistema, quindi noi dobbiamo cercare anche nella maniera cominciare a pensare a modalità diverse di stare insieme e di vedere anche l'economia, che oggi è solamente dove le persone sono strumentali all'economia e non viceversa come dovrebbe essere. Quindi immettere anche la solidarietà come elemento dell'economia, la solidarietà operativa, la solidarietà concreta, non solo un valore astratto ma qualcosa che diventa appunto realtà quotidiana. Questa è l'esperienza dell'associazione SHEC. Io vorrei sentire un ascoltatore, Gabriele da Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io ho telefonato perché mi sono avvicinato per caso a una teoria monetaria che si chiama MMT, e che individua nella impossibilità che oggi hanno molti stati come l'Italia e tutti quelli europei di emettere la moneta, il loro problema. Questa teoria individua che l'obbligo degli stati è creare ricchezza, creare occupazione per tutti, e con questo meccanismo del non poter avere moneta, del non poter immettere liquidità come l'Italia ha e tante altre nazioni, si è creato il disastro. È una teoria fatta da professori universitari della Mosley Economics, che è una scuola che è molto conosciuta nel mondo, e mi ha aperto gli occhi su un problema che l'Europa, oltre che nata male, non potrà risolvere i suoi problemi se non si inizia a stampare moneta, non tanto liberamente, ma quanto solo quello che serve per dare impulso all'economia. La ringrazio. Indubbiamente l'Europa è nata con la volontà di creare una moneta unica a cui seguisse immediatamente anche una unità politica che facesse di questa realtà un'unità nazionale, che quindi il problema nazionale fosse un problema europeo, con una moneta unica europea, come c'è negli Stati Uniti, una moneta unica per tutti gli Stati Uniti. 24 mattino. Eccoci all'ultima parte di 24 mattino, stiamo parlando di euro, di moneta unica europea, ma di qualche iniziativa che può superare un po' le difficoltà che sta creando l'euro. Ma sull'ultima telefonata vorrei sentire il professor Massimo Amato dell'Università Bocconi, questa teoria appunto che bisognerebbe ripristinare la sovranità, la possibilità per le nazioni di battere la propria moneta, che abbiamo sentito dall'ultimo ascoltatore. Ma sa, a me sembra che se solo guardiamo che cosa ha fatto la Banca Centrale Europea negli ultimi 3 anni, vediamo che Mario Draghi di moneta ne ha stampata tutta quella che poteva stampare, ne poteva stampare anche di più, ma il problema è che questa moneta non circola. Allora, non si tratta tanto di capire a che livello la moneta debba essere creata, se da uno Stato o da un'Unione, ma che il modo in cui la moneta viene creata implichi anche che circoli. In questo momento noi siamo in crisi perché la moneta non circola e ne è stata creata, diciamo così, la liquidità è triplicata nel giro degli ultimi 5 anni, semplicemente non circola. Questo è il vantaggio, diciamo, delle camere di compensazione, perché sono costruite in modo tale che la liquidità venga creata non dagli stati ma addirittura dagli attori economici, e venga distrutta dagli attori economici perché viene utilizzata dagli attori economici. Quindi una moneta che viene creata e distrutta nello stesso tempo, e quindi non crea inflazione. Non crea inflazione e sostiene la domanda in maniera non inflattiva. Ecco, c'è un'esperienza o almeno uno studio molto avanzato da parte della regione Sardegna. Abbiamo in linea Alessandra Zetta, buongiorno. Buongiorno a voi. Assessore alla programmazione della Buongiorno. Regione Sardegna, che cosa state facendo a Cagliari e in regione, Assessore Zetta? Allora, intanto preciso che in Sardegna esiste appunto il sistema del Sardex, che è appunto una moneta complementare, forse tra le più conosciute perlomeno in Italia. Noi crediamo che attraverso questa moneta ci sia la possibilità di ricollocare produzioni e consumi, supporto alle piccole e medie imprese, anche uno stimolo all'innovazione, allo sviluppo di soluzioni locali per problemi invece che sono in questo momento globali, quindi una crisi contro la crisi diffusa. Crediamo di poter appunto soddisfare il circuito Sardex intervenendo con una dotazione di 20 milioni di euro che mettiamo ovviamente nella disponibilità attraverso la contropartita di un servizio a favore appunto della comunità per 10.000 disoccupati o inoccupati. Il sistema della moneta complementare, sappiamo, in momenti di recessione, insomma, o si attiva una misura di politica fiscale o una misura di politica monetaria. Noi abbiamo scelto di utilizzare una piccola forma di politica monetaria, che è quella appunto che prevede l'inserimento appunto della stessa moneta, che poi sia Sardex o comunque ovviamente gli approfondimenti saranno fatti anche sul sistema europeo. Però ecco, il Sardex ha già dimostrato di essere affidabile, anche perché, come diceva prima il professore, c'è una facilità che è quella intanto di non creare interessi e quindi di avere l'interesse proprio invece di smerciare più facilmente, di confrontarsi appunto sui circuiti commerciali attraverso gli scambi di acquisto ovviamente e di vendita. Quindi questi fondi che voi avete stanziato servono praticamente da garanzia a questa moneta? Di fatto è il valore che noi inseriamo nel circuito, proprio perché non avendo beni e servizi dobbiamo comunque apportare il medesimo valore. Noi ecco, lo apportiamo attraverso, da un lato, i nostri 10.000 disoccupati che intervengono nel sistema, dall'altro facciamo di fatto una sorta di carriere, nel senso che noi interveniamo nel momento in cui ecco, questi beni e servizi vengono meno, e noi ovviamente come pubblica amministrazione attraverso delle gare, questo lo voglio precisare perché è stato anche il dubbio di qualcuno che ha criticato questo sistema, noi interveniamo ecco, nel mercato Sardex contribuendo anche noi con beni e servizi. Ecco, ma professor Amato, se questi soldi vengono stanziati come garanzia, in parte questi soldi vengono bloccati, che differenza c'è tra mettere immediatamente sul mercato questi fondi? Allora, a parte che appunto non conosco i dettagli del progetto Sardo, quindi non mi pronuncio in maniera tecnica, il vantaggio è che in un sistema, in una camera di compensazione, il denaro circola più velocemente. Quindi se io trasformo 20 milioni, diciamo così, di euro in 20 milioni di unità di conto all'interno di un circuito di compensazione, la costruzione stessa, il modo stesso di funzionare del circuito di compensazione li fa circolare più velocemente, e quindi la velocità di circolazione crea ricchezza senza dover passare per una creazione monetaria. Ecco, vorrei sentire Carmelo da Milano, buongiorno. Buongiorno, io avevo una domanda per quanto riguarda la moneta complementare. Volevo sapere chi sarà il proprietario di questa moneta complementare e se il suo valore sarà stabilito dalla ricchezza del territorio oppure se partiremo con un altro debito verso un altro ente. Grazie, domanda molto chiara, professor Amato. Ma sa, il proprietario della moneta strettamente non esiste, perché l'unica cosa che può fare un proprietario di moneta, se la usa bene, è cederla. Quindi lei capisce che la tendenza in una camera di compensazione è non avere né debiti né crediti, cioè di tornare periodicamente all'equilibrio. Non viene creata però con un meccanismo di debito, se questo è quello che la preoccupa, nel senso che viene creata dal fatto che c'è uno scambio. Se c'è uno scambio c'è un pagamento, se il pagamento viene rinviato, certo c'è un debito in capo a chi non paga immediatamente, ma c'è anche la possibilità per chi si è indebitato di pagare il suo debito vendendo merci. Ecco, in pratica, per essere il più semplici possibili, se il macellaio ha 100 euro di debito verso il panettiere ha 100 euro di debiti verso il carrozziere ha 100 euro di debiti verso il macellaio, non c'è bisogno che questi 100 euro circolino materialmente, ma possono circolare con una moneta complementare e questo debito si compensa. Esattamente, cioè basta registrarli questi debiti ed è inutile che questi tre soggetti vadano ad attingere al loro conto in banca che gli costa il tasso di interesse che gli costa per pagarsi ogni volta. si tratta di aspettare il momento in cui il primo debitore sarà pagato dall'ultimo creditore. Insomma. Quindi far circolare una moneta, anche se non è una moneta, in modo da compensare crediti e debiti e in questo modo aiutare l'economia a funzionare. Esattamente, e tenga conto del fatto che questo potrebbe essere, nella misura in cui, questo per esempio lo stiamo cercando di fare a Nantes, la pubblica amministrazione entra come fornitore di servizi e anche come pagatore di beni nel circuito dell'economia privata, questa forma di compensazione che è stata lungamente evocata in Italia potrebbe trovare, diciamo, il suo luogo naturale proprio all'interno di circuiti di compensazione. Ecco, abbiamo messo in luce tanti problemi, abbiamo messo in luce una situazione certamente di difficoltà, una possibilità di aiutare l'economia. Cerchiamo di approfondire questa possibilità senza dare drastici appunto giudizi, senza pensare che si possano risolvere problemi difficili con soluzioni facili. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza e Valentina Magri in redazione. L'appuntamento è per domani. 24 mattino.